per forza inchiodare adesso i quadri a questo. Ma è musica contemporanea, Drago. No. Ma cappa, cosa hai fatto? Non posso ripeterlo, non posso dirlo. Ma guarda che comunque il fresco fa bene. Il fresco fa bene. Ma non la sai, taratata, non la sai, taratata, taratata. Cos'è? Cos'è? Sì. Ma cos'è? Le mosche? Ma basta! Ti schiaccio come una mosca, eh? Ormai se tu fai tutti sanno, no, che cos'è? È il telefonino che si infila, non so. Ma c'è una nuova diciamo particolarità audio nel mondo moderno che ormai sta diventando acquisita da tutti. Un'onomatopea? No, non proprio. Per esempio è il digitale terrestre, no? Il digitale terrestre ha questa particolarità che ogni tanto si incarta e quando si incarta fa cose tipo tipo, non so, fai l'intervista a qualcuno. Beh, questa sera è andata abbastanza bene, abbiamo giocato. Però devo dire che la squadra si è... Quando fai yoga c'è un punto nell'esercizio che si chiama asana. È il punto di massima fatica. E io l'ho raggiunto da un po' il punto di massima fatica. Chiedo asilo. Ogni cos'è? Giorno. Ma no, non devi fare il promo prima che cominci la trasmissione, perché Drago? No? Ma perché? Appena sta per cominciare... Chi è? Ma come chi è? Una marimba? Oggi è venerdì. E ieri era giovedì. Error. The requested URL could not be retrieved. Abbiamo vinto il festival di Sanremo. Abbiamo vinto il festival di Sanremo. Ma non è fra sei mesi Sanremo? Ma no, ma no, ma no, ma no, ma no, ma no, ma no, ma no, ma no, ma no, ma no. Non te li tagliare, ma non te li, tu fidati di me. Ma io voglio tagliarmi i capelli. Ma non posso decidere non, io, non, perché non devi hai... decidere tu? Sei sempre lì che mi dici fai questo, fai l'altro come se fossi te stesso. Sono io, deciderò io cosa fare dei miei capelli. Voglio ma dire. Invece no, perché stai male, non te li tagliare. Se mai te li taglio io. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo. Un saluto da K e un saluto da Drago. Ma fai tutto da solo, quindi posso andare via io. Diciamo che oggi non è né Natale, né Santo Stefano, né la Vigilia, niente. Cos'è oggi? È un giorno qualunque di questa settimana un po' strana. Proprio un giorno qualunquissimo, un martedì 27 dicembre in cui non succede un tubo e in cui probabilmente anche la crisi si è preso così un momento di riposo. La crisi si è preso? Un momento di riposo, si spera. Al maschile. Allora noi continuiamo con l'album, con l'album dei ricordi. Sì, com'era maschile e femminile, com'era la questione? La crisi è femminile, scusa. E quindi si è presa un momento di pausa. L'album dei ricordi del bambino Alberto, 2011, prevede anche i resoconti dei suoi viaggi. Che sono stati numerosi con i suoi genitori. Diciamo che il rapporto del bambino Alberto con i viaggi è un rapporto difficile, ma ancora di più il rapporto con i genitori che lo portano in viaggio. E ora, bambini, ricreazione! Che poi, a dire la verità, io non l'ho mai chiamata ricreazione. Alla scuola svizzera intervallo. La chiamavamo... No, pausa. Oh, mamma mia, la pausa. Noi l'intervallo. Mi viene in mente, Drago, in questo momento, quel film che ho visto l'altra sera su una scuola superiore americana in cui al momento della ricreazione, appunto, o della pausa, o della... E dell'intervallo. Dell'intervallo, si creavano sempre situazioni molto interessanti. Non so, c'erano corteggiamenti fatti di sguardi, sì. No? Con la ragazza seduta sulla panchina, le botte negli spogliatoi. Sì, macismo. Le canne di marijuana nei gabinetti. Sì, vabbè, però capo, qui siamo in un asilo e durante la ricreazione non ci si corteggia con gli sguardi, non c'è nessuna ragazzina seduta sulla panchina, non ci si picchia e non si fuma la marijuana, ci soprattutto, si picchia. Ci mancherebbe pure. Peccato, perché sarebbe tutto molto più divertente. Ma perché non guardi qualche film meno leggerino, qualche volta qualcosa di adatto alla tua età? Perché i film sugli adolescenti mi fanno sognare. Drago, parlano al mio vero io, quindi io sono io, sì, è un io adolescente, il mio vero io. È tuo io. Ma guarda che sono fatti bene.

basta che li metti l'estro adesivo in bocca, poi dopo. Invece no, De Gregori cupo, sempre ombroso. Ma non ci sono speranze, bambino Alberto Fortis. Devi dire ai tuoi genitori che vuoi andare in Giappone. Vabbè, ma a parte Alberto Fortis, ormai. Cosa? Vabbè, Alberto Fortis. E poi in Giappone perché? Perché è meglio l'encefalite giapponese o Jovanotti più De Gregori col fratello e l'olio? E Alberto Fortis. È una bella domanda, non lo so. Pensaci. C'è anche la terza opzione poi, topi nepalesi nel letto. No, basta coi topi, Vabbè, ma nepalesi. Vabbè, nepalesi o no, sono sempre topi, no? Scusate, invece di andare in mezzo ai topi, ma perché non ce ne andiamo in un villaggio turistico di quelli che gestisce la camorra, no? Giù a Sharm el Sheikh, Andiamo lì? Le topi non ci sono mica, lì non si alza la mosca, lì non si può neanche protestare tipo, cameriere scusi, una volta che hai firmato il contratto, che paghi? E poi dopo... Vabbè, ma che vacanza è? Ed è economica però. È in ritardo, ma vedi che sto smartphone qua che mi ha regalato. Ma no, adesso basta. È veramente una merda. Se eri contento quando l'avevi preso, ma perché non facevi dopo, altro che... perché a Natale sotto l'albero fai grazie, ma era proprio quello che volevo, in realtà non lo volevi, grazie, in realtà ti fa schifo perché non funziona, poi voglio dire non ha neanche il sistema operativo quello, scusa, che ha fatto quello là che è morto, come si chiama, già non mi interessa più, a me risulta che te lo sei comprato tu, non te l'hanno nemmeno regalato, quindi è adesso vero. Non cercare di scaricare la colpa sugli altri, perché sei andato tu nel negozio. Ma perché comprato. L'altro me, Drago, quante volte ti devo dire che sono schizofrenico? È quell'altro. È bellissimo questo smartphone, Cap, perché sennò qui poi la pubblicità cala nel 2012. Infatti, anche secondo me è bellissimo. Anzi, io consiglierei uno smartphone a ogni italiano, una cosa così per risolvere la crisi. Ma secondo me già ce l'hanno. Dici? Vabbè, allora, domani mandateci uno smartphone via mail con l'allegato a chiedosilo, radio24.it, oppure scriveteci sulla nostra bacheca di Facebook. Oppure suicidatevi, tanto insomma la crisi non passa. Bello quello smartphone.